quale dobbiamo questo, non solo la nave, ma i loro studi, dobbiamo questo nuovo sguardo sulla storia del nostro paese e anche su questa storia ottocentesca, su questa storia del risorgimento che abbiamo, è stata per anni forse un po' sepolta sotto colpi un po' pesanti, ma che oggi sta riprendendo forza grazie anche a loro. Il mio compito è finito qui e quindi do la parola, non so come siete organizzati, a Borghi. Dunque, in questa storia d'Italia in Audi, la nave 22, che io e Alberto abbiamo curato insieme, ci ha portato insieme a lavorare per molti mesi, è pubblicato da Einaudi nel 2007, abbiamo cercato di guardare nuove cose sul Risorgimento. Ci sembrava assolutamente che gli studi sul Risorgimento si sono ristagnati, molto si sono ristagnati, e dunque volevamo introdurre dei nuovi sguardi, delle, quello che Alberto chiama le figure profonde del Risorgimento. E io stasera ho l'intenzione di aprire uno di questi elementi nuovi che sono vecchissimi, ma di guardarlo sotto un nuovo modo, e parlerò per mezz'ora del romanticismo, la connessione fra il romanticismo e il Risorgimento. E poi passerò la parola a Alberto, mi ha detto che non ha titolo, è un mistero il contenuto, e va benissimo così, un po' di suspense. E anche lui parlerà per mezz'ora più o meno, e poi vogliamo molto aprire la discussione e sentire i vostri pareri. Anche noi le cose che avete detto. Allora, la mia storia del romanticismo e del Risorgimento inizia in Sicilia e inizia il 12 gennaio del 1848. In quel giorno un giovane studente di 29 anni e un gruppo dei suoi amici, studente si chiama Giuseppe Lamazza, siciliano, decidono di fare una rivoluzione. Ed è la prima rivoluzione delle rivoluzioni del 1848-49. È una rivoluzione unica nella storia perché preannunciano la data. Dicono: noi faremo la rivoluzione il giorno del compleanno del re. Non so se Lenin sarebbe stato molto contento di questo straordinario atto di bravura, di foolishness, di assurdità. Arriva il 12 gennaio, Lamazza e i suoi amici cominciano a erigere una barricata. Arrivano i soldati e sparano, due di loro, se ricordo bene, muoiono, spariscono, cercano rifugio in una chiesa. Sembra uno di quelle bravate senza esito. La sera spostano, vanno in un altro quartiere, ed è Fiera Vecchia, artigiani, disoccupati, c'è stata una forte crisi nel 47, a pescatori, e riprovano, fanno di nuovo una barricata, e questa volta trovano altri fra gli abitanti di questo quartiere che decidono improvvisamente, senza conoscerli, di dargli una mano. E quella sera sono 30 barricate a Fiera Vecchia, il giorno dopo sono 300. Il re delle due Sicilie ha 5.000 truppe alla sua disposizione. Quando vede che divampa la rivoluzione, manda altre 5.000 truppe. Non riesce a stabilire l'ordine nella città e le truppe, come sapete, si ritirano. La Sicilia ha fatto la sua rivoluzione partendo dal giorno del compleanno del re. Cosa ci insegna questa cosa sul romanticismo, sui codici di cultura di questi giovani che hanno fatto il Risorgimento? Bisogna dire senz'altro che questo è un codice culturale del tutto particolare, ed è quello che voglio esaminare brevemente questo pomeriggio. In che cosa consiste la cultura del romanticismo e in particolare del romanticismo politico? Non è facile farlo in mezz'ora, ma mi piacerebbe provare. Allora, cominciamo. Cos'è il romanticismo? Si può anche non solo fare una lezione solo su quella domanda, ma fare 25-30 convegni su questo. Senz'altro è importante capire che il romanticismo non è univoco, è rivoluzionario e controrivoluzionario, è democratico ma è anche aristocratico, è rosso e bianco, è attivo e contemplativo, è mistico e anche carnale. Il romanticismo nella storia, non solo dell'Ottocento ma anche del Novecento, è tutte queste cose. E ogni volta bisogna andare nel contesto storico e vedere esattamente che elementi trionfano in quel momento storico particolare. Quello che si può dire per le generazioni del Risorgimento, ma non solo per loro, anche per tutti i romantici e i romantici politicizzati della prima metà dell'Ottocento, è che il loro romanticismo si basa su una serie di rapporti privilegiati. Ci sono certe cose che sono estremamente importanti per loro e ci sono altre che loro mettono in secondo posto, che loro relegano a un posto inferiore o insignificante. Questo sistema di rapporti privilegiati si basa sostanzialmente sull'idea del Bildungsgeschichte, sulla formazione dell'individuo. Il romanticismo è l'autorealizzazione dell'individuo. E i diari e le raccolte di lettere di questo periodo, che sono ricchissime, questo è un grande momento d'oro per scrivere diari e lettere, e ancora il 90% di questi documenti sono da esaminare, da leggere, giovani storici, a indagare le carte dei familiari, eccetera. Questa formazione dell'individuo ha certi, come ho detto, rapporti privilegiati. Cosa sono? Sono cinque principali. Il primo, e devo farli telegraficamente perché non è possibile pausare su ognuno. Il primo è l'amour passion, l'amore romantico. L'amore in tutte le sue ricchezze, dolori, è forse la cosa che più cercano le generazioni romantiche della prima metà dell'Ottocento. Tu hai fatto male nel risvegliare il mio cuore, scrisse Lord Byron in italiano, in magnifico, al suo ultimo e italianissimo amante Teresa Guiccioli. Perché, continua Byron, almeno nel mio paese l'amore mio è stato fatale a coloro che amai ed a me stesso. Allora l'amore passione, mi ha detto, fatto malissimo risvegliare in me questa passione ingovernabile. Uno, pure che può prendere molte forme, ma che i romantici celebrano in continuazione, e sono anche, ci sono delle poesie bellissime di Wordsworth, molto nell'avanguardia storica di curare e proteggere la natura, di non rovinarla attraverso l'opera dell'uomo. Natura che può essere docile, come per i Lake Poets, come per Wordsworth stesso, le colline molto dolci del nord dell'Inghilterra, o può essere quella natura sublime, antagonista, che fa paura, che vediamo molto nei quadri dei tedeschi, ma anche in Turner, anche. Amo passione, natura, terzo elemento, la partenza e il viaggio. I romantici sono impazienti, sono insoddisfatti con la vita quotidiana, con i routine, vogliono scappare. È una generazione che vuole scappare in molti modi. Un modo può essere quello di fare un lungo viaggio, come fa Chateaubriand, che decide di andare sul fiume Mississippi, lontano negli Stati Uniti ancora primitivi. E una volta lì dice: finalmente mi sento libero, lontanissimo dalla Francia e dall'Europa. O può essere una spedizione politica, una spedizione come quella che finisce così male di Pisacane, un viaggio che forse è un viaggio verso la morte, ma sempre un viaggio, sempre un momento da cogliere. Questo è il terzo elemento. Il quarto elemento è la storia. I romantici amano la storia in modo straordinario, perché la storia rievoca tempi più gloriosi, e in particolare il Medioevo, tempi in cui i cavalieri erano cavalieri, dove gli uomini erano uomini, dove era possibile avere i rapporti non viziati dal mondo moderno, anche dal capitalismo moderno. C'è tutto un filo del romanticismo del primo Ottocento che denuncia, Blake in particolare, il capitalismo che avanza in Inghilterra e non solo in Inghilterra. Il quinto elemento, il quinto rapporto privilegiato, è la morte. E la morte non è considerata come noi lo consideriamo oggi, come catastrofe, è considerato spesso, e ci sono tantissimi elementi di prova di questo, come una cosa, un gesto importante da fare in una situazione particolare. L'autosacrificio violento, un'eroica ribellione al destino. Alla fine del Manfred di Byron, la figura principale dice: oh vecchio, non è così difficile morire, si può anche morire. Questo è importantissimo per il romanticismo politico e per la generazione del Risorgimento. Garibaldi, 25 aprile 1860, qualche giorno prima di alzare le vele per la Sicilia, scrisse ad un parente: d'altronde non ho più che un desiderio, morire per l'Italia. Aggiungo rapidamente un altro elemento di questa visione del mondo dei romantici, e ha da fare con il tempo. Il tempo per i romantici non è mai uguale, non è mai un minuto dopo un minuto, e invece può essere, ed è Wordsworth che lo spots of time, momenti di tempo del tutto particolare, sublime, un primo bacio, l'ultima lettera prima di andare a morire, momenti, spots of time che hanno un significato tutto particolare. E per contrasto ci sono i lunghi anni, giorni, settimane, mesi, anni, quando il tempo diventa, come dice Nerval, quando diventa il sole nero della malinconia. Cioè le lettere della generazione del 48-49, dopo quelli in esilio, quelli che rimangono, quelli che sopravvivono a Roma nel 1849. Le loro lettere sono piene, pienissime, di queste ore che non finiscono mai, di questo sole nero della malinconia. Questo per darti un'idea. E poi devo dire un'altra cosa introduttiva ed è importante, che questi, la Masa e altri, gli italiani, ma non solo gli italiani, hanno una possibilità di richiamarsi a una cultura romantica di straordinaria ricchezza, cioè di un'intensità di produzione che forse non è mai stato uguagliato in altri momenti della storia moderna e contemporanea. Se pensiamo al periodo 1815 al 48, e qui vengo, se tutto va bene, alla prima illustrazione che voglio farvi vedere. Ha funzionato. Allora, qui siamo al quadro che Alberto conosce fin troppo bene. Prendo così e se non cade tutto posso dire qualche cosa. Questo è di Joseph Danhausen del 1840 e immagina il suo studio e nel suo studio c'è la creme della produzione romantica. Allora, chi è? Va bene così, non preoccupate. È un miracolo che abbiamo fatto 800 pagine insieme senza mai litigare. George Sand in pantaloni, note che sono le due donne nel quadro, tutte e due, a differenza degli uomini, stanno per svenire ascoltando Liszt. Accanto a George Sand troviamo Alexandre Dumas e dietro quelli Victor Hugo, e poi arriviamo ai due italiani che si abbracciano, molto bello, e sono musicisti, Gioacchino Rossini e Paganini. Rossini è quello grande e Paganini è quello. Dietro, che probabilmente non riuscite a vedere, ma forse riuscite a vedere, sul palese c'è un ritratto. Di chi è il ritratto? Di Lord George Byron, che è sotto tantissimi aspetti la persona più popolare, i lavori più diffusi del romanticismo europeo. Grazie mille. Allora, qui abbiamo una ricchezza molto particolare ed è difficile pensare a un'altra età dove è ripetibile. Ma detto questo, vengo a un momento molto difficile di passaggio. Cioè, se la cultura romantica era così forte, se la produzione era di altissimo livello, e lo era, tutti i giovani dell'Italia, della Polonia, della Grecia erano tutti romantici pronti a morire, erano tutti come la masa pronti a fare barricate il giorno del compleanno del re. Ed è ovvio che non è così. E c'è quello che gli storici culturali chiamano la difficoltà della ricezione, cioè esattamente chi recepisce che cosa e poi decide di fare che cosa. E non ci sono automatismi, in nessun modo si può dire, siccome viene da quella città e quel gruppo di persone che sono in quel liceo farà quello. E come sempre nella storia delle singole persone, molto complesse. E provo con un'altra, se riesco. Ecco, ecco il romantico puro, e nel suo piccolo, come si chiama, sottotetto, carretto, sottotetto, insomma, la sua stanza è guardato più vicino, sì. Soffitto. Questo è un quadro, un autoritratto di 1813. Il pittore si chiama Tommaso Minardi e si può trovare questo quadro nella galleria Vasariana, il corridoio Vasariano a Firenze, negli Uffizi. Allora, sembra pronto a lanciarsi nella rivoluzione, a lanciarsi nel romanticismo puro, anche siamo a Roma, 1813. Infatti, questo Tommaso Minardi sostanzialmente non fa nulla, non è un Bellamasa, non è un Garibaldi, cioè fa pittura. Nel 1821 vince la cattedra di disegno della scuola romana dell'Accademia di San Luca, ha molti allievi e insegna. Quando arriva nel 1848-49, lui, che è descritto come di una pietà esemplare, sta dalla parte del papato contro la Repubblica. Allora, quella figura che spesso è stato preso come la quintessenza della generazione romantica è una figura senz'altro di rispetto, ma non uno che ha fatto il salto dentro il romanticismo politico, anzi, è un moderato. È possibile fare una tipologia romantica di questi personaggi, chi si impegna, chi non si impegna e perché? Allora, questo è un viaggio di celle che per ragione o di famiglia o dei gruppi di persone che ha incontrato a scuola o perché sotto l'influenza forte di un professore particolare decide di fare il salto. È difficilissimo capire tutto questo, è affascinante anche. Perché Emilio Morosini, che ha 18 anni, che è uno dei Trazzi di Milano, cioè uno del gruppo di Milano, di Dando e di altri, perché questo ragazzo con le ricciole bionde decide a un certo punto di andare a combattere fuori la sua casa, è un aristocratico, di andare a combattere gli austriaci per le strade di Milano del marzo del 1848? Cosa lo spinge di farlo? E scrive, dopo due giorni, scrive non al padre, ma alla mamma: sono così felice perché finalmente ho assassinato un tedesco. E allora, questo è molto particolare, anche molto lontano da noi, e dobbiamo cercare di capire. L'opposto, nei ricordi di Alexander Herz, aristocratico anche lui, c'è una descrizione bellissima di due suoi amici, Vladimir e Alexander Engels, Anils. Questi due sono romantici puri, ma sono tutti versati verso l'interiorità, verso i loro rapporti, il romanticismo che non li manda fuori nelle strade, ma li manda dentro loro stessi. E questa descrizione di Herzl così ironica, così bella, che entra in questa stanza nel loro albergo in Nizza e trova uno in un angolo della stanza con piangendo la donna e dall'altra parte uomo esausto con le labbra bianche perché hanno litigato e poi il rapporto si è ricomposto, poi si è rotto di nuovo. E Herz commenta: e fuori c'era il Mediterraneo e tutti gli alberi e gli aranci, e loro non vedevano la realtà, potevano solo vedere la loro interiorità. Terzo modello, ma tre non bastano ovviamente, ma il tempo stringe, è la coppia di amore romantica e nazionalista insieme, o se volete patriottica insieme. E so benissimo che c'è un grande dibattito su patria e nazione, che io non entro forse a detto di raccontare. Ma in ogni caso, pensiamo a, per esempio, Aurelio Sacchi, triumviro nella Repubblica Romana, e la sua moglie scozzese, Nina Kofi. Questo è un grandissimo amore romantico. Quando non possono vedersi perché lui è in Italia e lei è in Inghilterra, si danno un appuntamento e in quel giorno preciso, in quell'ora, devono leggere gli stessi versi di Dante, del paradiso, dell'inferno, eccetera, in modo che insieme fanno le cose. Questi due sono mazziniani e quando eseguono Mazzini in modo molto interessante dopo 1860, soprattutto a Fortina, Ravenna, eccetera. Qui non c'è grande interiorità, c'è grande amore, ma versato soprattutto verso l'esterno. Un altro elemento fondamentale, la questione di genere. C'è una grande differenza fra come reagiscono le donne e gli uomini nei decenni che io tratto, ma non c'è dubbio che è così. Ultimo quadro che avete per voi stasera, la cospiratrice del 1848, milanese. Nessuno sa chi l'ha dipinto, è in una collezione privata a Milano. Questo forse voi riuscite a vedere il piccolo colore che ha nelle mani. Questo e come volevano gli uomini, come idealizzavano le donne, come cercavano di immaginare tutte le donne, la compagna idealizzata, una che sta sulle barricate, o se non sta sulle barricate, sta negli ospedali, insomma uno che segue tutto l'andamento del romanzo stesso. Ma non era così, assolutamente, su questo sono sicuro, anche se il paper di Alberto e Mister, di questo ne sono sicuro sentiremo altre cose. Qui voglio solo dire questo, che durante il Risorgimento i due generi e le due sfere, privato e pubblico, si trovarono spesso in forte tensione tra di loro. L'aspirazione maschile all'autorealizzazione, alla realizzazione della sua formazione personale, non era di buon auspicio per la vita familiare. Sarà anche stata una passione divorante quella dell'uomo romantico, ma era ben lungi dall'essere una passione domestica. E questo è importante, perché l'uomo non è solo l'uomo, l'uomo è anche padre e anche marito. Le donne, e le mogli in particolare, erano troppo spesso lasciate al ruolo passivo di destinatari di lettere dal campo di battaglia o dall'esilio e, nel migliore dei casi, di istruzione dell'educazione dei figli e richieste di denaro. Qui dobbiamo fare una divisione tra la famiglia d'origine, la mamma di Mazzini, per dirlo in modo molto, che appoggia fortemente tutte le attività del figlio, o le sorelle di altre figure, quelle che vengono dalla famiglia d'origine, e quelle della famiglia di procreazione, cioè le mogli. E qui troviamo una grande differenza, perché nel campo della famiglia che i patrioti stessi hanno fatto, esiste una fortissima tensione fra la donna che è lasciata a gestire tutta la sfera privata e l'uomo che se ne va. Nino Bixio è un esempio, forse un terribile esempio, che non può stare mai fermo, lo scrive chiedendo scusa, e quando non c'è la rivoluzione organizza un viaggio in Australia che rovina definitivamente le finanze di tutta la sua famiglia. Ma ci sono anche altri, meno drammatiche di lui, per dire che c'è un momento, un altro molto bello che vi raccomando fortissimamente, sono le lettere di Santore di Santa Rosa. E lui deve andare in esilio, ma a differenza di Pixio, ama in modo passionale la sua moglie e i suoi figli. E le sue lettere da Londra sono straordinarie in questa definizione della sua sofferenza, della sua lontananza, ma guarda caso, malgrado la sua moglie Carolina lo chiede ogni anno di andare insieme in Svizzera o di andare da qualche altro, lui risponde sempre di no, e alla fine, come sapete, prende la barca e va a morire per l'indipendenza greca, senza mai aver più visto né figli né moglie. Allora qui, se posso dire, sono forti campi di tensione fra i generi. Finisco, e ancora 3 o 4 minuti, per parlare della sfera politica. E questo ovviamente sarebbe un'altra lezione, ma non posso dire nulla su come è stato recepito il romanticismo politico nella letteratura, sia teoria politica sia storica. Si può dire che sostanzialmente il romanticismo politico, cioè l'idea di utilizzare questa cultura romantica nella sfera politica, è stato considerato con grande disprezzo. E nessuno è stato più sprezzante di Carl Schmitt nel suo libro Romanticismo politico del 1925. Carl Schmitt, Romanticismo politico 1925. È molto sorprendente, se uno indaga su questo, quanto poco è stato scritto sistematicamente sul Romanticismo politico, quasi nulla. Cosa dice Schmitt? Dice che i romantici politici hanno una cronica incapacità di collegare causa ed effetto nella sfera pubblica. Non riescono a analizzare una situazione politica, trarre le conclusioni e agire in modo corretto. Dice, per loro è tutto fantasia, è tutto inventato. E poi dice, allora cos'è il romanticismo politico? E risponde, è l'occasionalismo soggettivizzato. L'occasione, si prende un'occasione, non si va dalla realtà, non si va dal nulla di reale, si usa la necessità dell'autorealizzazione, la soggettività personale, e si fa. E dice, porta sempre a disastri. È il modo peggiore di fare la politica. E Benedetto Croce nel 1932, nella storia d'Europa del secolo XIX, dice la stessa cosa. Lui parla dei romantici politici in questi termini. Le anime femminee, impressionabili, sentimentali, incoerenti, si vede che non li ama. Volubili, che stimolavano in sé medesimi dubbi e le difficoltà e non sapevano poi padroneggiarli, amavano e cercavano i pericoli e perivano e ci perivano dentro. Allora, cercavano il pericolo, erano anime femminee, impressionabili. E, insomma, tutta una storia come quella di Lamasa, mandato nella spazzatura della storia, di cose assolutamente non capace di capire i veri rapporti e i fondamenti e regole della politica. Io non sono sicuro, e chiudo qui, che sia così. Certamente si può riconoscere nella storia del romanticismo politico tantissime volte le cose che dice Carl Schmitt. Se guardiamo l'espedizione del Risorgimento, i fratelli Bandiera, Garibaldi stesso, vediamo degli errori che sono comiche e tragiche tutti insieme, perfino la spedizione dei Mille. Vanno via e ci dovrebbe essere un incontro notturno un po' fuori al mare per consegnare le armi che insomma funzionano, ma le due barche non si incontrano. Garibaldi aspetta 2 o 3 ore e poi dice va bene, non abbiamo scelto, andiamo avanti lo stesso. Questo per Carl Schmitt sarebbe assolutamente imperdonabile, andare avanti lo stesso, anche come ha fatto la madre. E come sapete Garibaldi va avanti lo stesso, e quando si arriva alla prima battaglia, quella di Calatafimi, i fucili non sono un granché utili, però vince lo stesso. Allora si vede che non tutto il romanticismo politico può essere ridotto alla formula dell'occasionalismo soggettivizzato. E quando penso al codice culturale di oggi, alla grande passività della gente, all'accettazione in un mondo dove i codici sembrano più di consumo che di aspirazione, di autorealizzazione nel senso romantico, io ogni tanto rimpiango il romanticismo politico, ed è un peccato che non c'è più di quello nei suoi lati migliori oggi in Italia e non solo in Italia.